e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti, Nicoletta, buongiorno. Buongiorno anche a te, Deborah. Ci ritroviamo anche oggi con la nostra puntata speciale di Cuore e Denari e ribadiamo ancora, si tratta di un'intera settimana speciale che la nostra trasmissione sta dedicando ai risparmiatori vittime del decreto salvabanche o ancor più vittime di una cattiva consulenza finanziaria. Stiamo commentando insieme tutte le novità quotidiane, tutte le notizie che movimentano la cronaca di giornata, cercando di mantenere il focus sui temi che però ci stanno più a cuore denari. Come proteggere il risparmio, come riconoscere gli investimenti a rischio, quali sono le domande giuste da fare all'operatore che magari anche in buona fede ci propone uno strumento di investimento con un buon rendimento ma che insieme ai vantaggi non spiega tutti i limiti di questo prodotto. Quali sono gli scenari possibili a cui si può andare incontro, anche i peggiori? Nei giorni scorsi noi ci siamo occupati, lo ricorderete bene, della norma che istituisce il fondo di solidarietà, di salvataggio per i piccoli obbligazionisti, che è ancora tutto da costruire ma che individua una platea precisa di risparmiatori da risarcire integralmente. Per tutti gli altri scatteranno iniziative individuali. Ieri abbiamo parlato anche in quali casi è ragionevolmente possibile riporre delle speranze in un'iniziativa legale contro l'intermediario finanziario. Oggi andiamo ad un altro grande tema che questa vicenda ha scatenato: l'educazione finanziaria, la nostra, quanto ne sappiamo dei prodotti di risparmio. Allora, 800 24 00 24, iniziate a prenotare i vostri interventi e restate con noi perché oggi inauguriamo un nuovo servizio di Cuore Denari. Sino al 31 dicembre faremo quotidianamente il punto sulla qualità dell'aria che si respira nelle nostre città. Ogni giorno sceglieremo tre località diverse e giorno dopo giorno, passetto dopo passetto, faremo il giro dello stivale per una sorta di tour dell'aria, un viaggio in cui prenderemo dimestichezza con i valori degli elementi che fanno la qualità dell'aria, particolato, polveri, ossido di azoto, di zolfo, e acquisiremo una maggiore consapevolezza degli effetti che la qualità dell'aria che respiriamo ha sulla nostra salute. Tutto questo, ci auguriamo, ci aiuterà a far nascere una nuova visione del rapporto ambiente-salute. Vi daremo tutti i dettagli nella seconda parte del programma, in cui dopo esserci occupati dell'aria delle nostre città entreremo anche nelle nostre case, bene sì, dove purtroppo non tira un'aria migliore. L'aria del vostro salotto e anche quello mio e di Deborah potrebbe essere meno pulito di quella di una strada cittadina mediamente trafficata. Anche per mio, perché il mio è in tutt'uno con cucina e divano, pensa, un living ampio, per cui figuriamoci, odore della cucina c'è di tutto. Ecco, che aria tira in casa vostra e che effetto vi fa e che effetto fa ai vostri bambini? Raccontatecelo al nostro numero verde. Allora, prima di partire con l'approfondimento sulle vittime del salvabanche, segnalo oggi, vale la pena farlo, che la borsa è molto positiva, oltre 2 punti di rialzo su tutti i listini europei, un mercato che è evidentemente contento della decisione che ha preso ieri sera la signora Janet Yellen, numero 1 della Banca Centrale Americana, che dopo ben 9 anni ha rialzato i tassi di interesse americani, portandoli tra lo 0,25 e lo 0,50%. Approfondiremo nel corso della giornata questo argomento. Noi torniamo adesso sul salvabanche. Lo abbiamo ricordato prima. In questi giorni abbiamo toccato vari aspetti di questa vicenda, abbiamo in particolar modo esaminato il possibile funzionamento del fondo di solidarietà destinato a ristorare i piccoli risparmiatori, e poi un altro tema sul quale per esempio sta facendo un gran lavoro il Sole 24 Ore è quello del riconoscimento degli strumenti a rischio se si ha il dubbio di averli sottoscritti, come gestire la questione con la banca se questa non ci permette di disinvestire perché in gergo finanziario si dice che sono illiquidi. Su questi argomenti torneremo anche domani con l'ultima puntata di questa settimana, ma insomma lo sappiamo bene, questi prodotti sono stati esclusivamente venduti attraverso il canale bancario. Se ci fossimo affidati alla consulenza di un promotore finanziario, di un consulente finanziario, l'avremmo scampata? Stamattina lo chiediamo a 2 interlocutori che su questo tema hanno molto da dirci. Maurizio Buffi, presidente di ANAS. Intanto, presidente, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno. Anche se la denominazione complessiva sta cambiando, l'ANASF è comunque l'associazione che rappresenta le migliaia di promotori finanziari operativi sul territorio. E poi saluto e ringrazio Aldo Varen, presidente di EFPA Italia e vicepresidente di EFPA Europe. Questa è una società che sostanzialmente, poi ce lo spiegherà lui bene, certifica la professionalità dei consulenti finanziari italiani, che fanno un sacco di esami naturalmente per mettersi un bollino blu. Esattamente, lui lo chiama anche così, vero? Varenna, buongiorno. Assolutamente sì, grazie Fede. Per l'invito e saluto il presidente. Grazie. Già mi piace che pensiamo al bollino. Allo stesso modo. Sì, anche perché in realtà poi in questi giorni si è fatto un gran dibattito anche su come riconoscere questi strumenti. Si è detto spesso assegniamo un bollino di rischiosità alle varie tipologie di prodotto di investimento che le banche e gli intermediari mettono sul mercato. Chissà se questa potrà essere una soluzione giusta per riconoscere quelli a rischio e quelli invece più tranquilli. Intanto 800 24 00 24, continuate ad intervenire su questo argomento come avete in tanti fatto negli ultimi giorni. Allora, presidente Bufi, ANASF, ieri la vostra organizzazione ha riunito a Milano il comitato esecutivo e ha proprio affrontato la delicata vicenda del salvataggio delle quattro banche di territorio che ha coinvolto migliaia di risparmiatori. Che conclusioni avete tratto da questa vicenda? Intanto abbiamo preso atto che a distanza di molti anni da alcuni analoghi episodi che tanto hanno influito sulle scelte e sulla consapevolezza dei risparmiatori in Italia, tutti noi ricorderemo i vari fallimenti di Argentina, Cirio e quant'altro, cosa che peraltro già allora, voglio ricordarlo, hanno impattato esclusivamente sul settore bancario, cioè sulla distribuzione che di questi prodotti è stata fatta in banca. Dicevo, a distanza di pochi anni, tutto sommato, siamo di nuovo di fronte a un esempio che viene così comunemente ricordato come risparmio tradito. E quindi noi abbiamo preso atto di questo, pur essendo del tutto estranei ancora una volta a queste modalità di collocamento dei prodotti che di per sé non è che vanno demonizzati, purtroppo è il modo con cui questi vengono distribuiti che invece va assolutamente censurato, perché poi succede quello che succede. E quindi l'associazione si è resa disponibile, torno a ripeto, con un senso di responsabilità, crediamo, come operatori qualificati, si è messa a disposizione di questi risparmiatori che sono stati sostanzialmente coinvolti in questa vicenda, la massima parte coinvolti senza averne piena consapevolezza. Certo, lei diceva noi siamo totalmente estranei a questa vicenda, perché presidente, un promotore finanziario certamente ha le competenze per riconoscere le caratteristiche degli strumenti di investimento e quindi suggerirli nella maniera più adeguata e pertinente ai clienti che questi promotori, appunto, che i promotori seguono, ma oltre a questo è proprio, come dire, una tipologia di prodotto, l'obbligazione subordinata, di cui magari il promotore non ha in carico dalle società mandanti di distribuire. Come mai il promotore non la suggerisce? Non è propriamente così. Allora, diciamo che secondo la nostra esperienza, secondo i dati, perché non è soltanto una questione di percezione o di esperienza personale, ma semplicemente secondo l'approccio, che è l'approccio alla e quell'attitudine che tante volte ho definito un'attitudine consulenziale, il promotore finanziario, il consulente è quel professionista che sostanzialmente riesce a mettere insieme tre cose quando ci riesce bene, poi qualche volta ci riesce meno bene evidentemente, e cioè fa consulenza, non la cattiva consulenza con cui lei giustamente ha introdotto il programma, fa consulenza, distribuisce prodotti e servizi finanziari, gestisce il conflitto di interessi e fa educazione finanziaria. Mettere insieme queste 3-4 cose è l'essenza della nostra attività, in una logica tra l'altro di pianificazione. È un bel acrobata. Non lo so se è un acrobata, no, sicuramente perché, insomma, un professionista mettere insieme tutte queste cose immagino che sia complesso. È la tipicità del nostro lavoro, per chi evidentemente lo interpreta al meglio, però nel merito della domanda, l'obbligazione subordinata di per sé non è un prodotto che va demonizzato, come non va demonizzato un'azione piuttosto che un'obbligazione. Il tema è come viene collocata, a chi viene collocata, in quale proporzione del portafoglio viene collocata. Esattamente. Infatti voi quello che fate prioritariamente, oltre al tutto il lavoro che ci ha indicato prima, quello sempre di suggerire un'adeguata diversificazione di portafoglio. Lo scandalo che abbiamo visto nella collocazione delle obbligazioni subordinate, che tutto il risparmio di queste famiglie, di molte di queste famiglie che sono rimaste invischiate in queste vicende, che avevano tutto il loro denaro collocato in un'unica obbligazione con un'unica scadenza, e quindi adesso è il motivo per cui si sono trovate azzerate di tutto, presidente. Questo è il limite, il grave limite di ciò che è stato fatto, di concentrare l'investimento, cioè l'esatto contrario di quello che andrebbe fatto, che anche il buonsenso peraltro induce a fare, certo, ma che una conclamata, come dire, conflitto di interesse in capo ad alcuni intermediari a volte purtroppo determina questi scempi, perché è di questo che si tratta. 800 24 00 0024, il numero verde per i vostri interventi. Volevo anche commentare le notizie di cronaca quotidiana. Aldo Varenna, adesso andiamo alla certificazione dei promotori, dei consulenti, ma in realtà FPA Italia certifica anche gli operatori bancari, i private banker, quindi non è un bollino che voi date solo ad una determinata categoria professionale di consulenti. Quindi anche in banca, volendo, troviamo il professionista certificato FPA che teoricamente potrebbe averci venduto un'obbligazione subordinata. Allora, diciamo innanzitutto che l'European Financial Pen Association è nata 15 anni fa a Rotterdam, presso l'Università Erasmus di Rotterdam, e ad oggi annovera quasi 30.000 colleghi certificati. In tutta Europa, naturalmente. In tutta Europa, in Italia siamo oltre 4.500, per rispondere tecnicamente e darle dei numeri, quasi 1.000 sono colleghi dipendenti bancari, che normalmente sono private banker, la maggior parte sono consulenti promotori finanziari e vi è comunque qualche decina di consulenti fiolli e professionisti. Quindi vi sono tre livelli diversi di certificazione, bisogna conseguire la certificazione dopo un esame su tutti e tre i livelli, dopo 90 ore, 150, 300 ore di aula. Io spiego sempre che può essere assimilata il primo livello a una laurea, il secondo livello, diciamo la laurea breve, il secondo livello ha una laurea, il financial advisor, e il terzo livello, financial planner, che ricordo sono 300 ore d'aula, è un master, potrebbe essere un master. Quindi quello che è un'obbligazione subordinata lo sanno benissimo. Allora, possiamo dire che si preparano a dovere. Il presidente Buffi dice il bravo professionista deve diversificare, il professionista certificato deve ancora di più applicare quello che ha studiato, è quello che mantiene, perché poi il professionista si deve ovviamente adeguare al cambiamento degli strumenti e del mondo finanziario. Il subordinato è il classico esempio del cambiamento. Le obbligazioni subordinate 10 anni fa non esistevano. Sono nate con l'esigenza del sistema bancario di fare raccolta e di rafforzare i propri requisiti patrimoniali, perché anche la vigilanza europea, la costituzione dell'Unione bancaria europea, appunto, richiedeva che si presentassero al cospetto di Bruxelles con tutte le carte in regola. L'ho solamente interrotta brutalmente a proposito di regole, Varenna, esatto, perché la regola del palinsesto dice che adesso devo dare il traffico. Andiamo. Ma la lascio completare tra un attimo. Cuore e denari. Decreto salvabanche, conseguenze per i piccoli risparmiatori, obbligazionisti ed azionisti delle quattro banche oggetto del provvedimento. Il decreto 183 del 22 novembre scorso, con questa settimana speciale di programmazione a Cuore Denari, sta cercando di capire cosa sta succedendo, come potranno tutelarsi le persone vittime di questo provvedimento, ma come potranno tutelarsi anche successivamente, prossimamente, le persone che adesso sono ragionevolmente spaventate da questa vicenda, non sanno bene che cosa hanno in portafoglio, si ritrovano delle obbligazioni, non riconoscono la differenza fra ordinarie e subordinate, molto spesso non si riconosce la differenza fra un'obbligazione societaria, bancaria o un titolo di Stato. C'è molto da fare sul tema dell'educazione finanziaria, terreno su cui le organizzazioni competenti si spendono molto, l'ANASF di Maurizio Buffi, adesso sentiremo ancora le considerazioni di Aldo Varenna, FPA Italia e Europe, che è, come dire, l'organizzazione che certifica ulteriormente la professionalità dei consulenti finanziari, ma a quanto pare il lavoro non è mai abbastanza. Varenna, la lascio concludere. Abbiamo ricostruito la storia di FPA, la società, l'associazione che dà questo ulteriore bollino di garanzia ai consulenti finanziari che ci dovrebbero seguire nelle nostre scelte di pianificazione finanziaria e di investimento. Dove eravamo rimasti? Sì, che l'esempio pratico era proprio l'aggiornamento professionale che un professionista certificato deve fare con minimo 20 ore d'aula tutti gli anni, e che porta a cosa? Esattamente a conoscere quelle strutture, quegli strumenti finanziari, assicurativi o quant'altro, o corporate, perché oggi ci stiamo ovviamente anche avvicinando al mondo azienda, al mondo imprenditori, attraverso o i corsi o gli eventi. Noi abbiamo un bellissimo meeting che tutti gli anni facciamo e che quest'anno sarà il 5-6 di maggio a Taormina. In quella due giorni il professionista si aggiorna. Quindi il mio invito al risparmiatore è semplicemente chiedere un professionista, esatto, che sia iscritto all'albo, che abbia le caratteristiche, ma che anche abbia, è ovvio che faccio uno spot pubblicitario da presidente di FPA Italia, abbia il famoso bollino blu, e che quindi questo bollino blu dia un percorso professionale che autentica la preparazione, dove non bisogna essere scienziati, ma poi andare sul campo e spiegare in maniera lineare, il più semplice possibile, l'ABC, come spesso si dice, e i rischi, i rendimenti, la liquidabilità, l'orizzonte temporale, quella che è la nostra professione. Quindi Presidente, ecco, per essere proprio chiari, una domanda che a microfoni spenti durante il traffico mi rivolgeva Nicoletta: se io vado in banca, perché poi concentrando la nostra attenzione sulle persone che sono rimaste vittime di questa vicenda, sono quasi tutti clienti bancari che mediamente non si facevano seguire da un promotore finanziario, vuoi per la dimensione del portafoglio investito, vuoi per tante altre scelte personali, perché c'è questo rapporto con il territorio molto stretto, certo, e quant'altro. Abbiamo il diritto, nel momento in cui andiamo in banca, di chiedere all'interlocutore, al professionista che abbiamo davanti, abbiamo il diritto di chiedere: hai una certificazione? Generalmente, se è l'impiegato che è lo sportello, è abbastanza evidente che non abbia questa certificazione, ma se il nostro portafoglio è un pochino di dimensione più elevata, ci segue un private banker e che ci chiude in un ufficetto e ci fa un colloquio personale, abbiamo il diritto di chiederglielo. Avete il diritto e chi vi sta di fronte ha il dovere di rispondere a questa domanda. Beh, e sarà anche per lui un motivo d'orgoglio, insomma, di dire: guarda, io mi sono anche preparato, ho fatto i salti mortali per avere tutti i requisiti di professionalità che mi diano credibilità sul mercato. Sì, anche perché soprattutto si tratta di professionisti già affermati che si mettono in discussione dopo 20-30 anni per conseguire un ulteriore upgrade, certo, professionale, a beneficio non solo della propria cultura finanziaria, ma totalmente a beneficio dell'investitore che ci sta di fronte. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande. A Maurizio Bufi, Aldo Varenna, faccio sentire adesso due situazioni diverse. La prima è quella di Gianni da Perugia, che salutiamo. Gianni, benvenuto. Buongiorno. Lo commentiamo insieme. Innanzitutto tanti auguri e buon Natale, almeno siamo tranquilli che qualche cosa così ce li siamo fatti e grazie. E poi siamo vecchi amici da tanti anni. Ah sì? Sì, la prima puntata di Radio 24 l'ho sentita a Torre Quinto quando andavo a Roma. Ho messo Radio 24. Da lì non mi insomma, non ormai, ormai Gianni siamo diventati parenti, perché dopo i 5 anni di ascolto si diventa parenti. Sì, meriti. Ci dica. Allora, io sono un creditore di Banca Etruria. Sì. Perché io ho conosciuto una promotrice finanziaria di Banca Etruria e ho messo dentro una promozione che mi fece fondi Arca, che sono i fondi delle popolari, e ho messo dei fondi che le nonne avevano dato ai miei figli con i buoni frutti. Ma il fondo di investimento, Gianni, è patrimonio separato. Cosa vuol dire creditore di Banca Etruria? Due secondi soltanto per dire. Allora, questa promotrice mi fece poi, io c'ho una società, mi fece aprire un conto corrente, dice: ma perché non apri un conto corrente in Banca Etruria? Un conto corrente, guarda che a me non mi serve, poi non voglio affidamenti, non voglio niente. Dice: no, ma tu apri, poi ti presento io, non c'è problema. Apro questo conto, io divento creditore dell'abbonamento al conto, come si può dire. Vabbè Gianni, però lei non ha né obbligazioni della Pop Etruria né azioni. Né azioni, però a un certo punto Banca Etruria vende la linea dei promotori finanziari senza dirmi niente. Io sono andato a pescare in Italia dove hanno andato a finire i promotori, le mie azioni, i miei fondi. Altrettanto dopo questa l'altra banca, UB Banca l'ha venduta un'altra. Queste sono le banche italiane. Allora Gianni, sì, qua c'è un po' di confusione. Intanto, creditore di Banca dell'Etruria, non so, Bufi, qui veramente manca... La promotrice probabilmente non si sa che fine abbia fatto in tutto questo giro di questa rete, ma questo è relativo. Il tema è che però l'ascoltatore deve stare tranquillo, ma la situazione di questi giorni genera confusione anche in chi la sua tranquillità può mantenerla appunto intatta. Se tu hai sottoscritto un fondo di investimento di una società diversa, ma l'intermediario è stata una delle quattro banche in questione, comunque puoi stare assolutamente tranquillo perché ne risponde la società che gestisce e costruisce quel fondo. Ci può commentare il caso di Gianni? Ma sì, anch'io convengo che non è chiarissimo. In ogni caso cerchiamo di semplificare le cose. Sottoscrivere un fondo di investimento, seppur distribuito da un distributore diverso, consente a chi l'ha fatto di poter godere di tutti i benefici appunto della diversificazione, perché di per sé un fondo di investimento è un prodotto diversificato. Certo. E quindi il rischio che lei giustamente ricordava prima, il paradosso per certi aspetti, che addirittura nei confronti del piccolo risparmiatore ci siano altissimi livelli di concentrazione, e questo è un tema che aveva rilevato anche la Banca d'Italia nelle sue indagini periodiche, consente appunto a chi sottoscrive prodotti di risparmio gestito di gestire al meglio il profilo di rischio rendimento. Detto questo, poi è chiaro che la promotrice a cui si fa riferimento evidentemente era una promotrice con un rapporto di natura bancaria, quindi che operava all'interno della banca, ma questo è irrilevante rispetto alla composizione del portafoglio. Quello che è bene ricordare è che la diversificazione è di per sé un elemento fondante dell'efficienza di un portafoglio, perché mette al riparo da rischi come quelli che hanno corso più delle volte inconsapevolmente i risparmiatori coinvolti nella vicenda delle quattro banche del territorio, e nel frattempo consente però di beneficiare degli andamenti di mercato quando sono positivi, sicuramente, quando sono negativi di minimizzare appunto anche eventuali perdite. Allora, adesso ci fermiamo perché andiamo a giornale radio, poi c'è il tema del divieto della vendita allo sportello di questi prodotti. Vorrei chiedere a Buffi e Varenna che cosa ne pensano in questo scenario di tassi ancora a zero, anche se la Fed li ha alzati. Gli strumenti di investimento più promettenti in termini di rendimento ci devono ancora spaventare, quelli che ci propongono, il consulente al quale ci affidiamo? Ci sono tanti scenari che si aprono di fronte a noi, adesso c'è lo scenario però del giornale radio. A tra poco. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Il 2016 segnerà la fine della crisi? Quello che è certo è che dopo 7 anni il paese è profondamente cambiato. Dai consumi al tempo libero, dai modelli di impresa alle abitudini alimentari, nulla tornerà come prima. Radio 24 vi porta in viaggio nell'Italia che verrà. Il venerdì nel GR delle 7 e la domenica nel reportage delle 8:15. Questo weekend, oltre il turismo di massa, mete sempre più personalizzate. Diana Rita D'Ambrosio. Cuore e denari. Eccoci ritrovati in diretta, ancora gli ultimi minuti di tempo dedicati al tema caldo del momento, il decreto salvabanche, i risparmiatori che hanno perso in una domenica pomeriggio o tutti i loro risparmi o gran parte dei loro risparmi. Saranno risarciti, tutelati? Come funzionerà il fondo di solidarietà? Come evitare situazioni simili in futuro e come capire quando? Questo è il tema di questa mattina, perché tutti gli altri ne abbiamo parlato a lungo nelle puntate precedenti. Quando il consulente che ci dovrebbe aiutare a fare un buon lavoro di pianificazione finanziaria, forse il processo di vendita, forse la pulce all'orecchio deve saltarci proprio in quel momento? Tanti gli argomenti che si prestano delle considerazioni interessanti. Noi questa mattina abbiamo la sponda di Maurizio Buffi, presidente di ANASF, l'associazione dei promotori finanziari, anche se la denominazione di questa categoria professionale cambierà a brevissimo, e poi Aldo Varenna, presidente di EFPA Italia e vicepresidente di EFPA Europe, è l'associazione preposta, è la fondazione europea preposta alla definizione di standard di preparazione professionale per gli operatori finanziari, promotori e consulenti. 800 024 0024, il numero verde per i vostri interventi. Peraltro anche la vigilanza sulla categoria professionale dei promotori dei consulenti cambierà fra un po'. Vorrei sentire anche Buffi cosa ci può raccontare a questo proposito, per capire se stiamo andando incontro ad uno scenario di ulteriore maggior tutela per i risparmiatori, che invece in questa situazione sono stati ben poco tutelati. Ma volevo risentire per un attimo Aldo Varenna con un commento sul tema dei rendimenti di queste obbligazioni subordinate, perché sono stati sottoscritti anche perché abbiamo davanti a noi un mercato di tassi zero, quindi rendimenti molto contenuti per molti strumenti di investimento, e in realtà poi le obbligazioni subordinate collocate in passato erano sì remunerative fra il 4 e il 5% di tasso di interesse, ma quelle collocate 4-5 anni fa più o meno riconoscevano lo stesso tasso di interesse del BTP, per cui strumenti più a rischio, ma non è che si prendessero più rendimento i risparmiatori in virtù di questo. Detto questo, visto che i titoli di Stato rendono quello che rendono, i fondi di investimento molto ben diversificati in realtà stanno subendo le montagne russe dei mercati, eccetera. Un risparmiatore che cerca una remunerazione un pochino più interessante, da che cosa può essere tratto in inganno, Varenne? Insomma, se non è un'obbligazione subordinata, cosa rischiamo di trovarci in portafoglio? Ma allora, innanzitutto la ringrazio per l'assist riguardo all'argomento tassi zero, perché sarà uno dei nostri argomenti principali nel meeting di Taormina del 5-6 maggio. Quindi è proprio perché ci si confronta fra professionisti. Quindi lei ci dice che ancora questi tassi zero ce li troveremo incollati addosso ancora. Beh, a lungo. Ieri la Yellen ha detto che sono tassi poco sopra lo zero anche per il 2016 per quanto riguarda l'America. Per quanto riguarda l'Europa, sappiamo bene che Draghi sta differente, quindi siamo messi un po' peggio. Tassi zero sotto zero anche, infatti. Infatti. Quindi tutto ciò premesso, come dicevi tu correttamente, vi era un'assurdità in termini nel proporre delle obbligazioni, peraltro subordinate, con tassi di riferimento simili a un titolo di Stato che ha una liquidabilità diversa, una sicurezza diversa e quant'altro, anche in periodi in cui lo Stato soffriva, diciamo, di credibilità e quindi di rating. Quindi tutto ci è premesso, ma allora il primo elemento essenziale è di non vendere mai rendimenti passati. E quindi attenzione agli investitori nel non approcciare l'investimento con un rendimento assoluto, quindi non relativo, rispetto a quello che è successo negli ultimi 3 mesi, 6 mesi, 12 mesi o quant'altro. I rendimenti passati non sono garanzia dei rendimenti futuri, questa è un'altra regola aurea, diciamo, dell'investimento, per chi non l'avesse mai sentita, oggi l'abbiamo ribadita. Sì, il rendimento passato non dissociato assolutamente dal rischio percorso per arrivare a quel rendimento e rapportato a quello che ha fatto il mio mercato di riferimento, può essere un elemento di analisi di qualità del servizio di gestione, che possa essere un fondo, una gestione o quant'altro. Quindi io dico sempre che il bravo professionista deve selezionare qualità altrui, non deve essere un alchimista che sceglie lui, questo è il mio parere, quando entrare in Giappone, quando uscire dal dollaro, quando comprare BTP o quant'altro, o quando in teoria comprare un buon fondo che ha sottostanti subordinati e dove il gestore è capace di capire qual è il subordinato giusto e quello sbagliato, piuttosto che approfittare di momenti di particolare stress, magari proprio in questo periodo. Ma ci sono quindi in giro anche fondi di investimento, per caso Varenna, che sono nella loro diversificazione naturalmente anche costituiti da obbligazioni subordinate, è possibile? Assolutamente sì, ci sono dei fondi che, per esempio, io nella mia attività professionale posso proporre, che sono i cosiddetti ibridi, che sottostanti hanno esattamente quella categoria che perpetui, subordinati, tutte quelle derivazioni rispetto alle obbligazioni che eravamo abituati a trattare, a proporre e a sottoscrivere fino a pochi anni fa, quindi una durata finanziaria normale, una cedola fissa variabile e finiva lì, quindi tutte quelle tecnicalità finanziarie che, se conosciute, vengono ovviamente affrontate, ben diversificate, magari con strumenti come il fondo comune, non col singolo titolo, ma che sicuramente non possono essere dissociate dal rapporto rischio-rendimento. E quindi, tornando al concetto di base, ahimè, il risparmiatore deve abituarsi, noi dobbiamo essere così corretti da farlo abituare con education, con assistenza, con monitoraggio continuo, che tassi zero vuol dire rendimenti a 2 anni negativi. Quindi, come se fosse una tavolaccia di colori, io devo trovare il colore adatto, l'arcobaleno adatto al mio cliente, magari possono essere più arcobaleni, e qui poi si cade nella MiFID che non può essere che si abbia profili diversi a seconda dell'intermediario sullo stesso cliente. Esatto, lì altro tema che abbiamo affrontato in questi giorni. Infatti, sì. Nel breve consigliamo, e sono contento che ci sia il mio presidente Buffi, che lo ringrazio ufficialmente per aver costituito con me e con altri colleghi EFPA 15 anni fa, quindi la derivazione all'origine e poi dell'associazione. Sì, dobbiamo sintetizzare, Varenna, quindi? Sì, quindi basterebbe avere 3 paginette, ed è un invito forte anche a chi fa le leggi e quindi a chi fa 500 pagine che non vengono lette da nessuno, dove semplicemente si dice: questo investimento, questi investimenti, che rendimento atteso hanno, che rischio hanno, che liquidabilità ho durante questo periodo, cosa hanno fatto rapportato al loro mercato di riferimento, perché un più 20 di un azionario con un mercato che ha fatto più 30 magari è un gestore scarso, un meno 5 con un mercato che ha fatto meno 20 magari il gestore è bravo, certo, perché ha perso molto meno del mercato. I famosi benchmark, Varenna, grazie. Allora, chissà se sarebbe contento di un prospettino di 3 pagine su una soluzione di investimento. Giulio da Teramo, che sento, poi vado alle conclusioni con Maurizio Buffi. Giulio, benvenuto, velocissimo, grazie. Buongiorno, io appunto in riferimento a quello, cioè sono d'accordo con l'ultima cosa detta. Ci sono delle regole scritte talmente piccole, incapibili, che uno che si avvicina non ti fanno capire niente, come prima cosa. E poi ci vorrebbero delle persone serie, oneste, che stanno di fronte a te, che non ti vedano come uno che porta soldi, ma uno che va aiutato. Mm. Grazie Giulio. Presidente Bufi, un commento su questo, se ritiene le conclusioni. Cosa sta cambiando per quello che riguarda la vigilanza per la vostra categoria professionale? È un cambiamento di maggior tutela per i risparmiatori? In un minuto, se ce la fa. Sicuramente sì, perché nel momento in cui verrà assegnata la vigilanza al nuovo organismo dei consulenti finanziari, di cui siamo parte integrante, questo nuovo organismo sarà nelle condizioni di svolgere l'attività di vigilanza, secondo noi, efficientando un monitoraggio del mercato, e quindi questo va nella direzione della tutela del mercato in generale. Ma poi diceva bene l'amico Varenna, che saluto, bisogna superare quelle pratiche commerciali disinvolte, mettersi nei panni degli investitori, fare della buona consulenza attraverso le migliori pratiche del mercato e valorizzare il ruolo della consulenza finanziaria in generale e degli operatori qualificati in particolare. Risparmiatore soltanto la responsabilità, che non è poco, di saperli riconoscere sul mercato. Lo so, quindi questo è un gioco che non va giocato stand alone, come si suol dire, cioè da soli, ma che va accompagnato con una crescita del risparmio da una parte, con una crescita degli operatori dall'altra. Speriamo che sia l'ennesima lezione che ci porta su questa strada. Grazie molto a Maurizio Bufi, Aldo Varenna, per essere stati con noi. Io, Nicoletta, adesso prendo un po' di fiato. E prendi un po' di fiato, perché fatti un bel respiro, parliamo di aria e prende vita una nuova rubrica di Cuore Denari. Respiriamo, il nuovo servizio che ci accompagnerà ogni giorno sino al 31 dicembre, partendo dai dati che ogni ARPA regionale fornisce quotidianamente, che sono disponibili sui siti di riferimento. Vogliamo aggiornarvi sullo stato di salute dell'aria delle nostre città per tenere alta l'attenzione e far crescere una nuova cultura del rapporto ambiente-salute. Ci aiuterà il dottor Mauro Mocci dell'Associazione Medici per l'Ambiente ISDE Italia. Buongiorno dottore, bentornato. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Intanto lo nominiamo in diretta dottor Aria di Cuore Denari. Sei pronta? Speriamo che sia una buona aria. Speriamo. Allora, dottore, oggi partiamo da Milano, Roma e Bari, così da rappresentare il nord, il centro e il sud, ma prima facciamo, a beneficio dei nostri ascoltatori, una breve leggenda. Sì, diciamo che parleremo un pochettino della qualità dell'aria, facendo un po' una sorta di equilibrio, non dando delle situazioni puntuali, una media, sì. Si può parlare di media, e parleremo dei vari rilevamenti che vengono fatti. I rilevamenti, ci sono alcune ARPA che le fanno giornalmente, quotidianamente, ma sono anche visibili sui siti delle varie ARPA regionali. Le validazioni vengono fatte invece quelle del giorno precedente. Anche lì faremo una sorta di media tra la previsione e quelle quotidiane, in diretta, non ancora validate, ma per noi vanno bene ugualmente. Purtroppo, e ci baseremo soprattutto sui maggiori inquinanti, quelli previsti per legge, cioè il particolato, il famoso PM10 o il PM2,5, il biossido di azoto e gli ossidi di zolfo, l'ossido di zolfo, ed eventualmente in alcune città dove è previsto i vari inquinanti, i vari inquinanti che possono essere eventualmente gli idrocarburi policiclici aromatici o i metalli pesanti in alcune città dove vengono fatte. Devo dire che la qualità dell'aria di questi giorni, purtroppo, viste le condizioni climatiche, l'assenza di piogge e l'assenza di vento, è pessima in tutta Italia. Iniziamo subito con delle buone notizie. L'aria è pessima. L'aria è pessima, soprattutto parlando nel dettaglio, abbiamo detto Milano, Roma e Bari, possiamo dire a Milano gli diamo dei colori, così per far capire, come già tra l'altro fanno le ARPA distinguono alcuni colori, chi inizia dal bianco, giallo, verde, noi facciamo il giallo, il verde e il rosso per renderlo più direttamente leggibile. Ecco, Milano oggi gli tocca un bel rosso, un rosso più, perché in alcune stazioni stiamo andando oltre i 100 microgrammi per norma metro cubo di particolato, di PM10, quindi quello già ci dà un rosso quasi un viola, sta diventando quasi un viola. Per Roma invece abbiamo un rosso, un rosso schietto, anche se in alcune zone potrebbe essere quasi un giallo. Per fortuna Bari un po' meno, Bari abbiamo un giallo, probabilmente giova della brezza, del vento, e quindi per Bari un giallo. Allora, Bari, dottor Mocci, no. Noi vogliamo anche, quando lo rileviamo, assegnare una maglia rosa o una maglia nera. Abbiamo una maglia da assegnare? Oggi la maglia nera se la contendono in parecchi, però diciamo che una bella maglia nera va a Torino, e tra l'altro anche tutte queste città stanno prendendo dei provvedimenti, targhe alterne. A Roma ci sono delle targhe alterne da oggi. Ma non basta. E poi anche nel comune di Milano, vero? Esatto. Ci sono delle iniziative. Però probabilmente non basta, se non interverrà la pioggia o il vento siamo condannati a respirare un'aria che è dannosissima, perché queste sostanze che vengono rilevate sono sostanze ovviamente dannose all'apparato respiratorio, dannose per l'immediato ma anche dannose nel tempo, perché sono sostanze che vanno... Quindi oggi siamo partiti malino, speriamo domani, e nel frattempo possiamo attrezzarci per la danza della pioggia, perché potrebbe far migliorare la qualità della nostra aria. Maglia nera a Torino, ma non va meglio per le altre città? Delle città che abbiamo esaminato, Milano, Roma, Bari, la migliore in questo momento è Bari, speriamo domani in colori più rasserenanti. Dottor Mocci, grazie, prossimo grazie. Giro domani, grazie, intanto potete riascoltare l'intervista sul nostro sito. Benissimo, adesso rientriamo a casa, ad attenderci c'è il prossimo ospite, il dottor Alessandro Fiocchi, responsabile del reparto di allergologia all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Buongiorno dottore. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, buongiorno dottore, ma insomma l'aria fuori, abbiamo sentito dal puntuale, abbiamo iniziato questa rubrica con il dottor Mocci, insomma non è tanto rasserenante, con lei parleremo dell'aria che respiriamo nelle nostre case, nei nostri uffici, che non ha nulla che invidiare purtroppo a quella esterna, anzi le concentrazioni indoor possono raggiungere valori considerevolmente superiori rispetto a quelli misurati all'esterno, come a dire, dottor Fiocchi, che con lei passiamo dalla padella alla brace, ma ci dia un quadro della situazione. Passiamo dalla padella a volte al fornello. Al fornello. Perché una delle fonti principali di allergeni indoor sono proprio le sorgenti di cottura, ma naturalmente non sono solo loro, ce ne sono veramente tante. Partiamo dai materiali da costruzione, ci sono le case che sono costruite a volte, famosissimo l'amianto, ma anche altri materiali di costruzione possono dare dei problemi, agli impianti di riscaldamento e condizionamento che possono portare degli agenti biologici. Ma ancora prima il terreno, sapete che può portare in certe zone il radon e o radiazioni elettromagnetiche, poi una volta che la casa è costruita si riempie di inquinanti, tanto per cominciare dall'atmosfera esterna di cui abbiamo già parlato, e poi noi ce ne mettiamo degli altri, ve ne elenco 4-5, sì. Uno sono i composti organici volatili, questi vengono dalle vernici, dalle colle, dai disinfettanti, dai prodotti di pulizia. Un altro sono i gas, in casa è facile avere più biossido d'azoto che neanche in strada, perché viene non solo prodotto dagli scarichi delle automobili, ma dalle stufe non ben ventilate, dai camini aperti, e se qualcuno ci fuma c'è anche il monossido di carbonio. Poi in casa abbiamo le endotossine, queste vengono da batteri, muffe, derivati epiteliali degli acari della polvere, e sono delle sostanze che girano nell'aria e danno un'azione irritante sulle vie aeree. E poi da ultimo gli allergeni. Insomma, animali. Non ci risparmiamo nulla, dottor Fiocchi, no, e quello che no. Non c'è lo produciamo noi, magnifico. È così, sì. Dottor Fiocchi, tante volte ripetiamo, siamo quello che mangiamo, ma siamo anche e soprattutto quello che respiriamo, no? Sappiamo quanto l'aria inquinata nuoce alla nostra salute, causando asma, allergie, malattie respiratorie in genere, problemi circolatori e nella peggiore delle ipotesi perfino tumori. Allora dobbiamo prendere consapevolezza che le esposizioni indoor sono di gran lunga maggiore di quelle outdoor, perché essenzialmente per la quantità di tempo che trascorriamo all'interno degli edifici rispetto a quelle trascorso all'esterno, perché è di un ordine di grandezza maggiore. Allora la domandona di oggi è: volete provare a quantificarlo? Dateci una percentuale, questo è il domandone, quanto tempo soggiorniamo in ambienti chiusi rispetto al tempo che trascorriamo all'esterno. aperto. 800 24 00 24, dateci una percentuale, vi stupirete anche voi. Puntate in alto, dottor Fiocchi, possiamo dare questa indicazione ai nostri ascoltatori? Ah sì, puntiamo in alto, sì sì. Noi pediatri conosciamo bene il problema, anche perché questo si riflette su tanti aspetti della vita del bambino. Dottor Fiocchi, a proposito di aria delle nostre case, noi tanti nostri ascoltatori saranno anche genitori, avranno dei bambini piccoli a casa, sentendo appunto queste informazioni ci allarmiamo un po', perché cosa c'è di più sicuro della nostra casa? Beh, l'aria della nostra casa non è tanto benevola nei confronti della nostra salute, ma è possibile misurare il livello di inquinamento delle nostre abitazioni? Ci sono delle rilevazioni che un cittadino può richiedere? Che può richiedere ad agenzie esterne, sì, pubbliche, che mi risulti no. Ci sono agenzie private che possono fare delle misurazioni, hanno le apparecchiature per farle. La cosa più semplice che un genitore può monitorare è il livello degli allergeni con dei test semiquantitativi che sono disponibili sia via internet che anche nelle farmacie, che dosano soprattutto il livello degli acari della polvere. Rilevare i livelli di endotossine, di biossido d'azoto eccetera in casa è invece impresa piuttosto ardua, così come rilevare i livelli di inquinamento per esempio da radon è un'impresa piuttosto ardua. Sono questioni che riguardano il quartiere, la città, più che non la casa del cittadino. Però gli acari possiamo rilevarli? Gli acari sì. È più semplice. 800 24 00 24, se avete bambini, se avete delle persone anziane che vivono con loro. Perché parliamo di queste due categorie? Perché sono quelle più fragili, quelle più esposte ai danni dell'aria inquinata. 800 24 00 24, ma anche 349 238 6666. Dottor Fiocchi, i soggetti più fragili, bambini e anziani, sono quelli maggiormente colpiti. Quindi quali sono i segnali che non vanno trascurati? Un inquinamento acuto può portare a una maggiore frequenza di infezioni respiratorie ricorrenti e quindi il bambino che diventa molto moccioso e molto catarrale. In questo periodo in cui ci sono alti livelli di inquinamento, in tutti i pronto soccorsi d'Italia stiamo vivendo un afflusso di bambini con infezioni respiratorie più frequenti e soprattutto di carattere asmatico. L'altro segno che possiamo cogliere è la dermatite. Ci sono inquinanti interni che sono irritanti e questi possono determinare dei problemi di eczema. Tra quelli che determinano più facilmente le infezioni ci sono i composti volatili. Questi vengono, li abbiamo visti abbastanza caratterizzati per esempio in bambini che vivono nelle scuole, perché parliamo di aria anche delle scuole, certo, dove si usano tanto le fotocopiatrici e questi possono aumentare per via delle fotocopiatrici. Insomma, le fonti possono essere diverse. Le fonti sono diverse, i nemici lei ce li ha già presentati, ci ha già dato un quadro chiaro della situazione, ma ora, dottor Fiocchi, lei ci aiuterà a scovarle e naturalmente ci suggerirà delle soluzioni per fronteggiare i loro attacchi. Iniziamo dagli acari, invisibili ad occhio nudo, per alcuni possono, come lei ha anticipato, rappresentare un problema. Partiamo quindi, come farebbe Sherlock Holmes, dagli indizi, dai luoghi. Dove li cerchiamo e quali sono i segni che ci devono far accendere una lampadina? Gli acari vivono sempre in tutte le case che siano sotto i 1600 metri di altezza e anche in quelle sopra se vengono tenute riscaldate per tutto l'anno, e vivono nei materassi, nei cuscini e nelle imbottiture. Lì non dobbiamo cercarli, siamo certi che ci sono, e una volta che abbiamo questa certezza, se vogliamo sbarazzarcene, liberarci dei loro effetti, la cosa che dobbiamo fare è mettere dei coprimaterassi e dei copricuscini speciali antiallergici. Attenzione, questa, Nicoletta, è un'informazione di servizio che dobbiamo dare, certo, che non sono quelli che si trovano, scusate, dal materassaio, ma francamente nemmeno in farmacia, cioè ci sono pochissimi prodotti che sono stati studiati, in Italia vengono distribuiti attraverso internet e sono i prodotti più seri, l'allergologo pediatra sa quali sono e vi consiglierà. Quindi non bisogna farsi suggerire dal pediatra, lei ci può dare qualche indicazione, qualche dritta per riconoscerli? Che cosa devono riportare? Deborah parlava, abbiamo parlato di bollini, ecco, quali caratteristiche devono avere? Qui tocchiamo un'altra corda sensibile, in realtà non c'è disciplina del bollino antiallergico in Italia, mm-hmm, e quindi il consumatore non può fare conto di questo. Uno può trovare dal cosmetico antiallergico fino all'aspirapolvere antiallergico, ma in realtà le cose studiate davvero sono poche, sono coprimaterassi, copricuscini e solo di alcuni tipi. Il pediatra indicherà. Quindi per non fare pubblicità, però bisogna che noi siamo consapevoli che dobbiamo richiedere dei prodotti che hanno una certificazione, tra virgolette, da studi scientifici. Esatto, giusto? Quindi piuttosto che prima di comprare, informatevi, chiedete al pediatra di riferimento, perché si rischia se no di buttare i soldi e di invitare gli acari a nozze. Esatto. Stanno lì benissimo nelle nostre case e ci danno problemi. Adesso è il tempo di andare a sentire che cosa succede nei mercati, poi ritorniamo insieme col dottor Fiocchi. Mi raccomando, se avete raffreddori ricorrenti, tossi, dermatiti, 800 24 00 24, scoviamo i nemici dell'aria della nostra casa e cerchiamo di affrontarli. Vi aspetto. Cuore e denari. Che aria tira in casa vostra? Sammy Barbò, abbiamo scomodato. Ma prima Marcella. 800 24 00 24, parliamo dell'aria delle nostre case insieme al dottor Alessandro Fiocchi, responsabile del reparto di allergologia all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. C'è anche il nostro domandone: qual è la quantità di tempo che trascorriamo all'interno degli edifici, casa, ufficio? Partite con una percentuale, il nostro numero verde è a vostra disposizione, cercate di avvicinarvi, abbiamo detto puntate in alto, perché passiamo tanto tempo della nostra giornate, quindi della nostra vita, tra casa, ufficio, scuola, e dateci una percentuale. Naturalmente l'ascoltatore che si avvicinerà di più potrà ricevere a casa un libro di Cuore Denari. Allora, dottor Fiocchi, abbiamo già individuato dove si annidano gli acari, continuiamo la nostra ispezione, andiamo a fare un giretto in bagno, in cucina, ambienti caldo-umidi che sono un resort a 5 stelle per funghi e muffe e batteri. Dottor Fiocchi, che indizi lasciano questi microorganismi? E che rischi possono farci correre? L'indizio è quello che vediamo anche in cantina quando abbiamo avuto un'esondazione o un allagamento. Qualcuno si ricorderà le immagini spaventose delle abitazioni di New Orleans dopo Katrina, e più o meno dietro al nostro frigorifero, dietro il termosifone del bagno, si può creare qualcosa del genere. E sono delle infiorescenze di colore scuro sui muri chiari che certamente tradiscono la presenza di muffe. Devo dirle, Nicoletta, che questa cosa, devo dirti che questa cosa si è incrementata con l'uso delle cucine componibili, perché naturalmente mentre una volta si potevano spostare ad uno gli elettrodomestici, adesso queste meravigliose costruzioni non ci lasciano più vedere cosa avviene dietro di loro. Ma allora, se poi usiamo i detersivi e prodotti per la pulizia, insomma, sono anche a rischio, perché non possiamo dimenticare che le esalazioni prodotte da detersivi, disinfettanti, possono provocare danni di diverse entità. Allora, ma queste muffe che si formano, ecco, come possiamo eliminarle senza poi peggiorare la situazione? Perché sembra che la coperta sia corta: se lascio le muffe mi danneggiano, se uso i detersivi, attenzione alle esalazioni. Insomma, un gatto che si morde la coda. Non voglio trasformarlo in un esperto di pulizie, dottor Fiocchi, ma c'è qualche rimedio naturale per salvare un po' la situazione? Beh, per le muffe il rimedio naturale è la candeggina, molto semplicemente. La candeggina data sui muri elimina le muffe in maniera abbastanza radicale. E poi esistono delle pitture antimuffe. Però, come giustamente dicevi, il rischio di avere delle reazioni da pitture, da colle, eccetera, è particolarmente elevato nei bambini. Perché i bimbi vivono in un mondo diverso da quello degli adulti, un mondo proprio di un'altezza diversa, e in quel mondo c'è proprio una diversa zona del mondo dove i deodoranti, gli insetticidi, i prodotti di pulizia evaporano con maggior densità, perché dai pavimenti evaporano e raggiungono prima le viere dei nostri bambini. Ecco, teniamone conto dell'altezza dei nostri bambini, perché su questo aspetto spesso ci sfugge. Invece sono ad altezza anche quando li portiamo fuori a passeggio, ecco, no? Sono proprio lì. Questo rischio a fare un aerosol dell'aria inquinata. Andiamo da Roma, c'è Elisa, e poi andiamo anche a Brescia, dove c'è Luigina che ci aspetta. Elisa, buongiorno. Salve, buongiorno a tutti. Benvenuta, ci dica. Io volevo chiedere al dottor Fiocchi, ho una bambina di 3 anni e mezzo che da circa un anno soffre di frequenti broncospasmi. Sono stata in visita al Bambin Gesù, mi hanno consigliato di fare una visita allergologica e prove allergiche, però la bambina appunto è molto piccola, non mi hanno detto che sia una cosa molto risolutiva e prove allergiche attendibili. Intanto questa bambina, come diceva il dottore, vuoi per il periodo, vuoi perché magari termosifoni o quello che abbiamo in casa ci danneggia, ha frequenti attacchi da broncospasmo. Le basta un piccolo raffreddore, un po' di muco, non ha tanto aria sole, però finiamo al pronto soccorso la notte perché la bambina va in apnea, non riesce a respirare bene. Chissà che spavento. Elisa, penso che il dottor Fiocchi, che tra l'altro è responsabile dell'allergologia all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, abbia tutte le indicazioni per dare dei suggerimenti ad Elisa e alle persone che, come Elisa, si ritrovano in una situazione simile. Dottor Fiocchi. Sembra proprio un'asma del bambino. Diciamo che non è vero quello che spesso si sente dire, che i bambini piccoli non hanno l'asma, così come non è vero quello che a volte si sente dire, che i bambini piccoli non possono fare le prove di allergia. Non so se Elisa sia o meno risultata positiva, ma se è allergica certamente bisogna partire all'attacco degli allergeni che la danneggiano. Nel frattempo, se anche non è allergica, il fatto di avere raffreddori che vanno subito al torace indica che lei è in uno stato di infiammazione alterato, e se la cosa succede con una frequenza importante bisogna difendersi aprendo un ombrello, e questo ombrello sono le cure antinfiammatorie di fondo che aiutano le mamme a mandare i bambini all'asilo senza che abbiano sempre la tosse. Dottor Fiocchi, queste indicazioni valgono naturalmente anche per gli adulti, non solo, non solo per i bambini, che poi non andranno all'asilo, naturalmente, ma andranno in ufficio. Sì, in realtà gli adulti che assomigliano di più ai bambini sono proprio gli anziani, è in loro che ritorna di attualità il problema delle infezioni. E gli adulti sani hanno certamente forme di asma, forme di allergia, possono aver bisogno degli stessi trattamenti, ma sono soprattutto gli adulti anziani quelli che vanno incontro alle peggiori complicazioni e sviluppano poi le broncopneumopatie ostruttive. Quindi, dottor Fiocchi, se ho capito bene, se il comune raffreddore va spesso e frequentemente in complicanza e quindi bronchiti, non si esce mai, o le infezioni si ripetono con una certa frequenza e in modo ravvicinato, i genitori devono rizzare le orecchie, almeno parlarne con il pediatra, perché potrebbe nascondersi dietro a uno stato di infiammazione o un'allergia. Esattamente, l'allergia da infiammazione e l'infiammazione da peggioramento delle infezioni. Allora andiamo da Luigina da Brescia e poi chiederemo al dottor Fiocchi anche apriamo il grande capitolo di quando e come aprire le finestre, perché dobbiamo arieggiare l'ambiente, ma molti si dicono vabbè, ma se fuori è inquinata, che aria cambio e mi per quanto? Mi lascia tutto aperto stamattina. Ecco, tutto aperto, ma ci sono invece delle persone che per fretta al mattino tirano sul letto rapidamente, scappano veloci e poi non arieggiano più la loro casa. Allora quali di queste due situazioni? Naturalmente, come sempre, il buonsenso ci aiuta. E poi un'altra indicazione: questo è un periodo molto delicato per l'aria delle nostre case. Siamo in un periodo di grandi addobbi e di grandi feste, gli addobbi per Natale, le piante, e poi si cucinano anche delle prelibatezze in occasione del Natale, e poi arrivano sulle nostre tavole degli alimenti, dei prodotti con una frequenza più ravvicinata rispetto al resto dell'anno. Tutto questo può in qualche modo darci dei problemi, quindi individueremo i colpevoli e soprattutto il dottor Fiocchi ci darà delle strategie preventive. Luigina, buongiorno da Brescia. Buongiorno, buongiorno Nicoletta. Buongiorno. Debra. Dunque, io sono qui a Brescia sto bene per certe cose, ma per via di aria e di inquinamento. Io vivo in una zona ovest di Brescia, sì, dove c'è stato anche l'inquinamento del PCB, che siamo ancora completamente. E poi c'è un'aria che non le dico. Questa mattina ho pulito i balconi e io non le dico il nero, la polvere pesante, che non è una polvere che scivola, che va. Si attacca proprio, diventa appiccicosa come dei veri e propri spazzacamini. Dottor Fiocchi, allora basta vederla, tante volte l'inquinamento si vede, si tocca e ci resta appiccicato addosso. Certo, Luigina, è un problema che conosco bene perché io lavoro a Roma, ma anche stamattina sono venuto da Milano e quindi conosco bene qual è la qualità della nostra aria padana. Devo dirle che difendersi da questo è veramente difficile, dobbiamo aspettare che il buon Dio mandi la pioggia e che venga un po' di brezza. In questi giorni un pochettino più di brezza pare che stia avvenendo. Per quanto riguarda invece quello che accennava Nicoletta, cioè come difenderci, come prevenire nelle nostre case le esposizioni inaspettate che avvengono in questa stagione, bisogna che gli ascoltatori sappiano che ci sono qualche piccolo rischio, per esempio negli alberi di Natale che possono ospitare una trentina di varietà di muffe, alcune delle quali possono essere allergeniche, quindi magari se si vuole preferire l'albero di Natale diciamo di plastica a quello vero, oltre ad aiutare la natura per ridurre lo scempio degli alberi, si aiuta anche il bambino o il paziente allergico a non avere rischi di questo genere. Alberi che naturalmente poi devono essere ben puliti dalla polvere anche durante la conservazione. L'altro rischio che già Nicoletta accennava, io lo vedo al 24, cioè di vigilia, quando la gente cucina il pesce, quando fanno i gamberi, e può essere l'occasione in cui si scoprono delle allergie al pesce prima non conosciute. Ricordo che per esempio i bambini e gli adulti allergici al pesce hanno delle reazioni anche quando respirano l'odore del pesce. E il 25, quando si aprono le noci e alcune frutte secche che si usano per Natale, penso specialmente alle noci del Brasile, quelle dure che non si spaccano mai con lo schiaccianoci, quelle lì possono dare delle gravi reazioni ai bambini allergici e agli adulti allergici. Quindi attenzione, adesso andiamo a farci un giro sulle strade, sì, poi certo, ritorniamo subito dopo. Intanto ricordatevi il nostro domandone: quanto tempo trascorriamo chiusi tra le nostre mura domestiche, ufficio, scuole, dintorni? Qual è la percentuale? 800 24 00 24. Dopo le strade torniamo naturalmente in casa a Cuore Denari insieme al dottor Fiocchi. E le finestre, ogni quanto bisogna aprirle, per quanto tempo, come si fa a cambiare l'aria di casa e serve davvero? Cuore e Denari. Voglia di fumare un'altra sigaretta mentre mi domando. L'aria di casa nostra certo non è migliore di quella che respiriamo passeggiando nelle nostre città, e noi però abbiamo la capacità di peggiorare la qualità dell'aria delle nostre abitazioni. Oggi stiamo ascoltando questa canzone che fa riferimento a un'altra sigaretta, fumo di sigaretta, ma anche le sigarette elettroniche, dottor Fiocchi, possono in qualche modo peggiorare la qualità dell'aria delle nostre abitazioni? Le sigarette elettroniche sì, perché sono fonte di composti volatili, possono certamente forniscono molto meno particolato di quanto non facciano le sigarette normali, però i volatili della sigaretta elettronica possono avere un'azione irritante e un'azione tossica, non hanno invece l'azione mutagena e cancerogena che è tipica del tabacco. Dottore, stanno arrivando tantissimi sms dei nostri ascoltatori, adesso poi andiamo anche alle telefonate, sì. Molti rispondono sulla percentuale, ma anche molti le chiedono ad esempio quali sono i detersivi meno nocivi per il nostro apparato respiratorio, come possiamo orientarci nell'acquisto? Non c'è una classifica ben stabilita, diciamo che ciò che è di odore meno pungente è generalmente meno irritante, quindi il nostro naso può essere un'ottima guida sotto questo profilo. I detersivi più irritanti sono quelli che hanno alto contenuto alcolico, alto contenuto di soda caustica, alto contenuto di ammoniaca, questi sono detersivi che certamente sono irritanti. Se si devono usare, perché ci sono situazioni in cui bisogna farlo, diventa molto importante la ventilazione dell'ambiente subito dopo. E a proposito di ventilazione, volevamo parlare di quando, per quanto tempo e come aprire le nostre finestre per cambiare l'aria. Nicola, dalla provincia di Vicenza, ci suggerisce subito la sua ricetta: in casa ogni mattina apriamo le finestre per 2 ore e poi io sto da 10 a 15 ore sul camion. Salutiamo Nicola, un nostro amico camionista, sono in tanti a seguirci. Fa bene, due ore non sono troppe? Ah, io credo che Nicola abiti nei Monti Berici, perché la qualità dell'aria che porta in casa deve essere migliore della qualità dell'aria che butta fuori. Purtroppo non in tutta la pianura padana, non in tutta l'Italia, specialmente non in tutta la pianura padana questo vale. Si rischia, aprendo tanto le finestre, di portare all'interno della casa gli inquinanti esterni. Quindi è un bilancio che va fatto. Poi la quantità di tempo dipende molto dai rapporti aeroilluminanti delle abitazioni. Le abitazioni più antiche vanno aperte più spesso, le abitazioni più nuove che hanno dei rapporti migliori tendono ad avere bisogno di meno apertura. Ma allora è meglio aprirlo più frequentemente oppure per tanto tempo una volta sola? Mi dia queste indicazioni, cioè è la frequenza anche breve di, no? Apro per poco tempo ma più volte, oppure arrieggio, faccio una arrieggiatona e poi non ci penso più? Ed è meglio farlo ad esempio solo al mattino o la sera prima di andare a dormire? Così raccolgo un po' di SMS che chiedono informazioni su questo. Ai miei genitori io dico di aprirlo al mattino quando loro rifanno i letti, le camere e cambiano l'aria della notte, di aprirla al mattino e lasciarla aperta fino a quando l'aria è fresca e la temperatura e l'umidità non scende sotto idealmente il 50%, perché l'umidità elevata è anche possibile causa di, come abbiamo già detto, di incremento di muffe. Aprirlo la sera può anche essere sano, però espone al rischio di perdere temperatura nell'ambiente, e quindi è una di quelle situazioni che naturalmente hanno un costo energetico. Allora ci scrive un ascoltatore via WhatsApp: parlate anche del pericolo radon, l'ha rapidamente accennato il dottor Fiocchi, sul radon dedicheremo una puntata, adesso stiamo cercando di raccogliere delle informazioni per respirare un'aria leggermente migliore nelle nostre abitazioni. Abbiamo Gianfranca da Aosta, buongiorno. Buongiorno a lei. La nostra rubrica L'aria che respiriamo arriverà anche ad Aosta, perché si pensa sempre a Aosta, chissà che aria, ma non è sempre. Non è proprio virtuosissima così, vero? Non cadiamo. Gianfranca, allora. Ma guardi, io abito a 1300 metri, abbiamo un'aria non secca, di più, non abbiamo umidità, dobbiamo farla. E questo ci comporta praticamente una secchezza, una tosse, un'irritazione, vai a capire. Sì. Però più che col tanto non riusciamo mica a combinare, perché anche mettendo sulla stufa l'acqua che bolla, gli umidificatori perché buttino fuori, noi non arriviamo a 40 di umidità e di conseguenza la salute ne va di mezzo. Mm-hmm. Che ci consiglia il dottore? Dottor Fiocchi. Beh, negli ambienti molto secchi effettivamente le vie aeree possono divenire sofferenti per il motivo opposto a quello in cui lo diventano normalmente. Bisogna essere molto secchi, sotto i 40 è tanto poco effettivamente di umidità relativa dentro l'ambiente. A quel punto diventa utile estendere alla giornata intera quei provvedimenti che normalmente si fanno soltanto la sera e durante le malattie degli adulti o dei bambini, per tenere umida l'aria e conseguentemente le vie respiratorie. Ricordo un episodio successo molti anni fa, un allergologo famoso statunitense di origine israeliana decise di trascorrere i suoi ultimi anni e dedicarli ad una clinica per il trattamento dell'asma che mise nel deserto del Mar Morto. La clinica ebbe un fallimento immediato proprio per l'eccessiva secchezza dell'aria. Quindi anche l'aria secca dobbiamo umidificarla, dottor Fiocchi, deve tornare, perché facciamo una puntatona su umidificatori, ionizzatori, e tutto quello che noi ci attrezziamo nelle nostre case per rendere l'aria migliore. Vediamo poi con che risultati. Dottor Fiocchi, intanto la saluto, perché noi abbiamo un altro appuntamento, andiamo a scrivere una favola, la favola di Cuore Denari insieme ad Andrea Vitali. Grazie dottor Fiocchi, buona giornata. A presto. Grazie a tutti gli ascoltatori. Andiamo subito a sentire come sta procedendo la storia del nostro Babbo Natale, poi diamo le indicazioni ai nostri ascoltatori. Diciassette i ponti che scavalcano il ruscello e 18 i monti che hanno neve per cappello, 19 bacche ha il vischio appeso al mio portone, 20 freschi, 20 fischiano questa canzone. Oggi scriverò la mia letterina a Babbo Natale, disse la bambina che abitava in quella casa, quella che si chiamava prima di diventare grande. La mamma, piede che sfiora l'erba, le disse di aspettare ancora un giorno. Il 17 porta sfortuna, la informò. Voleva forse correre il rischio che la sua lettera, per le ragioni più varie, non arrivasse a destinazione? Meglio, suggerì, attendere il giorno seguente. Babbo Natale, sempre costretto nella canna fumaria del camino di quella casa, aveva sentito tutto e la cosa lo mise in ulteriore ambascia. Ecco un'altra bambina che andrà delusa dal sottoscritto se non riesco a uscire da questa condizione. Ridicola condizione, se non fosse drammatica per il Natale che si avvicina, commentò tra sé. E se quel giorno era davvero il 17 dicembre, come aveva detto la mamma della bambina, significava che gli restava sempre meno tempo. Nel frattempo, la bambina, prima di diventare grande, stava raccontando alla mamma tutte le cose che desiderava e che avrebbe chiesto nella lettera al babbo. Al sentirla parlare, a Babbo Natale si inumidirono gli occhi e anziché frenare le lacrime, lasciò che scorressero perché un'idea gli era balenata nella mente. La neve fiocca. Intanto che Nicoletta qua in studio si esibisce nella canzone dei Surutumana, vi chiediamo qual è l'idea che è venuta in mente a Babbo Natale? Naturalmente, a voi il compito di rispondere a questo interrogativo che vi ha lasciato Andrea Vitale. Avete tempo fino alla mezzanotte. Infatti, il podio è sempre pubblicato sulla nostra pagina dedicata all'iniziativa speciale appunto di Natale. Naturalmente la dovete raggiungere andando sul sito di Radio 24. Dobbiamo dire che Stefano ha risposto al domandone, ma i nostri ascoltatori sappiano che il tempo trascorso dai cittadini italiani in tutti gli ambienti indoor porta la percentuale media a 89%, con valori che oscillano tra l'84 e il 93%.